giovedì 14 febbraio del 2013, 87.900 la modulazione di frequenza. Tutte le informazioni relative alla scaletta di oggi le trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 14 febbraio, le nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana tra rassegne, festival e proiezioni in giro per l'Italia, e poi il link che rimanda alla puntata precedente alle puntate del 2012 e 2013. Dicevo, cominciamo con qualche minuto di anticipo perché non era in scaletta, ma volentieri sentiamo Stefano Grossi. Intanto benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie a voi, saluto tutto il vostro pubblico. Allora, con te, perché più tardi parleremo con Maurizio Di Rienzo in merito alla nona rassegna Italia Doc che apre alla Casa del Cinema qui a Roma, certo, dal 20 febbraio al 14 maggio, che comincia appunto il 20, mercoledì 20, proprio con un tuo documentario. Stefano, allora raccontaci un po', intanto partiamo dal titolo e poi dici un po' la storia che racconti. Sì, il titolo è Il paese di Gio Arruò, sottotitolo Il grande inganno di Calciopoli, ed è il primo film, diciamo, che affronta organicamente la vicenda di Calciopoli nei sei anni che ci separano, appunto, ormai stanno diventando sette praticamente dal 2000. Eccoci qui, ti abbiamo ritrovato, stavi parlando degli anni che sono passati dall'inizio dello scandalo, insomma. Sì, esatto, ormai sono quasi sette anni, nel senso che fra pochi mesi saranno sette anni, dal 2006 ad oggi. Il film ripercorre tutti questi anni anche attraverso, dicevo, le testimonianze e le opinioni di cinque importanti giornalisti che hanno seguito da vicino la vicenda, con opinioni e voci discordanti anche, ma ugualmente interessanti, che sono Oliviero Bea, Mario Sconcerti, Tony Damascelli, Alvaro Moretti e Roberto Beccantini. Il film parte da due libri di Renato La Monica, che ha scritto con me la sceneggiatura, che si intitolavano La Juve nel paese di Gio La Ruota e Calciopoli il grande inganno, e sono due libri che già nel 2007, insomma, uno del 2007 e l'altro del 2009, avevano cominciato a fare realizzare una vera e propria controinchiesta su Calciopoli, portando alla luce tutta una serie di elementi che a poco con il tempo sono stati puntualmente confermati. Dico subito una cosa a cui io tengo molto, lo dico sempre a quelli che potrebbero essere interessati, e anche il DVD che è disponibile online sul nostro sito, il nostro blog, che si chiama Nel Paese di www.nelpaesedigiolaruota.wordpress.com. E questo è un film laico, nel senso che una delle tematiche principali del film è proprio quella di cercare di sgombrare il campo da tutte le diatribe, proprio le lotte di religione fra opposte tifoserie, gli odi incrociati, e cercare invece di porre in contesto storicamente una vicenda che è molto più complessa di come è stata raccontata, specialmente all'inizio, e che di giorno in giorno si arricchisce di sempre nuovi elementi. Quindi in realtà il film, se ha un merito, io credo, è proprio quello di mettere per la prima volta in modo organico in relazione, ed è quello che a me è piaciuto molto dei libri di Renato La Monica, da cui mi sono ispirato, di mettere in relazione Calciopoli, lo scandalo di Calciopoli, col sistema paese che noi appunto abbiamo chiamato Gio La Ruota, questo paese in cui la ruota per l'appunto gira sempre, le cose in generale non cambiano e i grandi scandali, i grandi misteri rimangono insoluti, e il massimo che si può fare appunto è cercare di gettare un po' di luce su queste larghissime zone d'ombra che caratterizzano proprio la storia del nostro paese. Calciopoli da questo punto di vista è stato una bella metafora del funzionamento di tanti meccanismi trasversali che inquinano la vita sociale, politica, economica, culturale, mediatica del nostro paese. Quindi è una magnifica cartina di tornasole, secondo me Renato, per raccontare appunto anche un pezzo di questo paese, per quel riflesso che ne ha dato, molto distorto ma anche molto nello stesso tempo molto reale, molto concreto e veritiero dello stato del paese, diciamo così. Stefano, volevo chiederti, rispetto ai due libri, hai parlato di controinchiesta, sì, verità che non erano state dette ma sono emerse. Ecco, a cosa ti riferisci in particolare? Principalmente, allora, i nodi principali sono due. Una è che anche attraverso gli ultimi sviluppi della vicenda del processo Telecom con gli interrogatori di Tavaroli e Mancini, insomma, e di tutta la colonna portante della Polis Distinto, sono venute alla luce appunto le responsabilità pesanti nel caso dello scandalo Telecom, della Telecom, e quindi di Tronchetti Provera e di Moratti e dell'Inter in generale nello spionaggio ovviamente illecito dei dossier illeciti di spionaggio ai danni di personaggi pubblici, tra i quali appunto Moggi Giraudo, alcuni arbitri, alcuni designatori, insomma, c'era un po' di tutto, alcuni calciatori, insomma. E questa che getta un'ombra molto pesante sulla intangibilità e sull'ineffabilità e sull'onestà che è sempre stata sbandierata dalla dirigenza dell'Inter, insomma, in questa vicenda, e quindi getta un'ombra ancora più pesante su quello scudetto del 2006 che fu molto affrettatamente attribuito all'Inter in seguito al lavoro di Guido Rossi. Sì. Questo è il primo nodo. Perché, come ricordiamo anche nel film, appunto, già Enzo Biagi nel 2006, proprio nell'estate del 2006, alla prima esplosione di Calciopoli, aveva detto che tutto questo sembrava, l'esplosione di Calciopoli per l'appunto, sembrava appunto una manovra per gettare in pasto all'opinione pubblica un colpevole, una serie di colpevoli di comodo, per nascondere però uno scandalo decisamente più pesante e che riguardava gangli ben più vitali della vita politica e sociale italiana, e cioè naturalmente l'affair Telecom, insomma. Questo è il primo nodo. Il secondo nodo è noi ci siamo anche molto concentrati sulle molte zone d'ombra che riguardano l'operato della nuova dirigenza Juve, in particolare della famiglia Agnelli ed Elkan, nella gestione del processo, del primo processo, nella gestione del mancato ricorso al TAR e soprattutto anche nei rapporti incrociati, insomma, fra potentati economici, nello specifico appunto Elkan, Agnelli, Moratti, Montezemolo, insomma, che in qualche modo nella nostra ricostruzione hanno contribuito in modo, secondo noi, determinante a creare e a far esplodere in quel modo e a direzionare in quel modo molto pesante e alquanto univoco appunto l'inchiesta originale di Calciopoli. Mm-hmm. Nel frattempo però le cose si stanno per fortuna allargando e credo che ci siano rimasti veramente in pochi, in buona fede naturalmente, a credere che la storia è stata proprio come ce l'hanno raccontata alcuni anni fa, insomma. Allora, in chiusura volevo chiederti anche rispetto agli interlocutori giornalisti che hai citato prima e che compaiono nel film, hai detto su alcune cose convergono, su altre no. Ecco, per sommi capi ci puoi dire questi due aspetti? Beh, insomma, è ovvio che Sconcerti non è mai stato particolarmente amichevole nei confronti della Juve, è uno di quelli che ancora difende in modo abbastanza violento i primi risultati dell'inchiesta, ma non può far meno anche di ammettere che la Calciopoli 2, cioè la parte di Calciopoli che ha fatto emergere le responsabilità dell'Inter, non possono essere passate in cavalleria, tant'è vero che l'Inter ha scampato una condanna sportiva soltanto per la prescrizione, insomma. Mm-hmm. Un'opinione abbastanza vicina, anche se variegata, sfaccettata in un modo diverso, Roberto Beccantini, che è uno dei più grossi juventinologi, insomma, in circolazione, che in qualche modo non è tenero, ma come del resto non lo siamo nemmeno noi nel nostro film nei confronti di Moggi, delle responsabilità di Moggi, però anche lui tiene molto all'idea, che è poi la base del film, di mettendo in contesto appunto tutta una serie di dati che non sono stati presi in considerazione nella prima fase, nel primo processo sportivo, è ovvio che si relativizzano un sacco di posizioni, e in un'inchiesta che ha coinvolto, adesso lo sappiamo, 16 squadre su 20 della Serie A del 2006, è ovvio che è un po' strano andare poi a concentrare l'attenzione soltanto su alcune e su una in particolare e su alcuni personaggi in particolare. Varrebbe come minimo la pena di riapprofondire e riguardare effettivamente le, le responsabilità bene, comuni, bene, che sono naturalmente con diverse gradazioni di pesantezza, sì, è ovvio, sì, questo sì, nessuno lo nega naturalmente, bene, noi per primi. Allora Stefano, ricordiamo l'appuntamento alla Casa del Cinema, primo appuntamento per la nona edizione della Rassegna Italia Doc curata da Maurizio Di Rienzo, che sentiremo tra poco, dal 20 febbraio al 14 maggio. Il 20 febbraio ci sarà il tuo documentario su Calciopoli, l'orario? Alle 19.30 in sala Deluxe, sì, poi verrà replicato nella sala Kodak il giorno dopo, il 21, e nella sala Kodak alle 18.30, e nella sala Kodak anche il sabato 23 alle 18.30, mentre nella sala Volonté domenica alle 16.30. E ci sarà modo anche per parlarne con te, immagino. Naturalmente, io sarò presente in tutte e quattro le proiezioni, in particolare nella prima, ma ci sarò anche nelle altre. Un abbraccio, a risentirci presto. Sempre a disposizione, grazie. Ciao, grazie Stefano. A voi, arrivederci. Stefano Grossi, regista del documentario su Calciopoli, proposto, come dicevo prima, all'interno della Rassegna Italia Doc. Abbiamo cominciato con qualche minuto d'anticipo, allora a questo punto proseguiamo. Per contattarci, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per seguirci o dalla vostra radio 87.900, la modulazione di frequenza, o in streaming dal computer, dal sito internet della radio www.ondarossa.info, alla voce ascolta la diretta sulla home page, e poi abbiamo anche la pagina Facebook di Visionari. Di nuovo con noi Teo Takahashi, regista del documentario Vietato Morire, in uscita con distribuzione indipendente domani 15 febbraio. Teo, ben ritrovato a Visionari su Onda Rossa. Ciao Federico. Come va? Bene, anche se sono un po' influenzato, e quindi insomma chiedo scusa se ho la voce un po' attufata, però ti sentiamo bene comunque. Meno male. Allora, di cosa si parla in Vietato Morire? Raccontiamo a chi ci ascolta. Allora, Vietato Morire è la storia molto umana di alcune persone che orbitano intorno alla comunità spazio dipendenti di Villa Maraini, comunità molto particolare perché adotta la filosofia della riduzione del danno, che è una filosofia che non prevede un'unica cura particolare per tutti gli utenti, come se ci fosse insomma un sentiero fatto con lo stampino da seguire in modo totale, insomma, ma si occupa di innanzitutto evitare che ci siano dei danni sulla società e sulle persone troppo evidenti, ecco infatti perché il titolo Vietato Morire, perché una delle prime regole che si propongono insomma gli operatori di Villa Maraini è proprio evitare che le persone muoiano, insomma quello è il loro primo obiettivo, e poi propone insomma delle soluzioni personalizzate che si sviluppano man mano anche con la personalità e con le relazioni dell'individuo innanzi alla struttura. E quindi ecco che la realtà è una realtà molto particolare, e le vicende che si svolgeranno all'interno saranno appunto quelle di quattro personaggi di età totalmente diversa, di estrazione sociale diversa e di personalità quindi assolutamente molto diversa. Allora Teo, la scorsa volta, quando ci eravamo sentiti un po' di tempo fa per la presentazione proprio di questo documentario, allargavamo anche un po' il discorso all'intera società, non esclusivamente sul discorso droga, il tuo concetto era che oggi in questa società tutto è dipendenza e consumo. Allora, non so se hai sentito tutta la domanda, no, Teo. No, se puoi ripetermela per favore, te lo dico. Sì. Allora, al di là del discorso droga, facevamo un ragionamento più allargato, e il tuo concetto era che oggi in questa società tutto è consumo e dipendenza. Beh, sì, insomma, quello io lo dicevo e lo ripeto perché tengo molto che insomma i personaggi non vengano visti in modo come insomma esclusivamente tossicodipendenti che fanno cose per l'appunto da tossicodipendenti, visto che la tossicodipendenza è uno sfogo di un problema che ha radici nel sociale, insomma vorrei che fosse come dire, una qualsiasi rappresentazione del problema tipico che è poi quello della nostra società, quindi, perché poi le stesse, cioè a mio avviso, almeno secondo me, le stesse dinamiche sono presenti in tutti quanti noi, che dobbiamo comunque fare i conti con delle voragini esistenziali che ci sono date dal dover rapportare il nostro essere a ciò che consumiamo, quindi appunto che non siamo veramente liberi di poter essere noi stessi, ma dobbiamo seguire degli iter più predisposti, no? E quindi questa è una cosa che io ho sempre pensato. Poi sì, non so se nello specifico uno allarga troppo il discorso e si allontana un po' dal film, ecco. Allora, ritornando allora nello specifico rispetto ai tuoi personaggi, volevo sapere, visto che li hai seguiti, una cosa che riguarda tutti, magari la volontà di uscire dalla dipendenza, quali prospettive ha in loro, che li accomuna magari? Oddio, la volontà di uscire dalla tossicodipendenza, ma tante volte non è nemmeno una volontà, soprattutto a Villa, che appunto si propone di dare una mano a tutti e non soltanto a come dice il dottor Barra, parafrasando i suoi discorsi, non solo quelli belli con gli occhi azzurri, biondi, alti e che vogliono riprendersi, ma proprio proponendosi di dare una mano a tutti. Ovvio che all'interno magari ci stanno anche situazioni un po' più complicate, di persone che magari o vogliono sfruttare la struttura per altri fini, di persone magari che inconsciamente hanno sempre il bisogno di fare qualcosa, ma che poi nella pratica in realtà non hanno i mezzi e le possibilità di fare qualcosa, insomma, in modo più concreto, e quindi scontrandosi con questo questo muro che hanno dentro, ovviamente poi questo sfocia in problemi anche all'esterno della persona. Sì. Senti Teo, allora, per l'uscita hai scelto Distribuzione Indipendente, che è una struttura della quale ci occupiamo abbastanza spesso. Ecco, come mai questa scelta? Beh, innanzitutto vorrei ringraziare Giovanni Costantino e Alessandra Sciamanna, insomma, di Distribuzione Indipendente, perché penso che questa distribuzione, almeno quello che mi ha colpito, è che oltre a occuparsi esclusivamente della promozione di film indipendenti e quindi di prodotti che in genere non sarebbero arrivati alla sala, si occupa anche della promozione delle sale d'essai, delle sale non ordinarie, non coperte, quindi non dei multisala, non di grossi, e questa secondo me è una cosa veramente molto, insomma, di buon auspicio. Mi sembra che almeno ci sia una volontà di poter ripresentare anche un po' l'esperienza cinematografica nel suo piccolo di quartiere, nella sua espressione molto, molto, appunto, ripeto, umana, molto intima, eccetera, sì, eccetera, come sì, insomma sì. Il cinema è nato nei teatri, era dappertutto, cioè ci passavano giornate intere nel dopoguerra. Mastroianni ricorda che al cinema, dopo la seconda guerra mondiale, lui ci andava con gli amici e passava le sue intere giornate vedendo 3, 4, 5 film alla volta. Insomma, una situazione che oggi, anche però grazie alle nuove tecnologie, a tutto quello che abbiamo, non è più così, e per cui Distribuzione Indipendente, con questo suo atto di voler far rinascere tra virgolette anche le sale un po' più piccole, quindi portando avanti un discorso più umano, più di comunicazione, più diretta, mi ha subito, come dire, stregato, sempre tra virgolette. Bene, allora ricordiamolo, da domani nelle sale per Distribuzione Indipendente. Teo, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Anche a te, Federico. Speriamo ce ne siano moltissime altre. Come no. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Teo Takahashi, regista del documentario Vietato Morire, in uscita con Distribuzione Indipendente. E ritroviamo anche Adonella Marena, che avevamo sentito un po' di tempo fa per un documentario sul movimento Notav, girato proprio in valle. Adonella, intanto ben ritrovata a Visionari. Oh, ciao, grazie, mi fa piacere sentirvi. Allora, con te avevamo anche accennato l'altra volta un secondo lavoro che viene presentato qui a Roma al Cinema America Occupato domani 15 febbraio. Sto parlando dello Sbarco. Allora, raccontiamo in breve l'argomento a chi ci ascolta. Sì, allora, lo Sbarco è un'avventura un po' folle, organizzata da un maestro elementare italiano che da molti anni però lavora all'estero e che attualmente vive a Barcellona, e che a un certo punto, siamo nel 2010, vedendo cioè da lontano cosa accade in Italia, lui e altre persone, altri cittadini italiani residenti all'estero si preoccupano e hanno voglia di essere solidali con chi in qualche modo resiste al degrado culturale, sociale, politico che c'è in Italia. Mm-hmm. E a questo punto decidono di fare organizzare uno sbarco. Era l'anno del centocinquantenario, no, dello sbarco di Garibaldi, però questo era uno sbarco al contrario, nel senso che si partiva da Barcellona e si arrivava in Italia, si sbarcava a Genova, e questo è accaduto, cioè questa idea che all'inizio sembrava folle si riesce a realizzare, perché c'è lo sbarco dei 1000 italiani dall'estero a Genova. Questo nel giugno 2010. Come dicevi la scorsa volta, la nave dei diritti, sì, sospesi, sì, esatto. Che ha vissuto di un tantam in rete, e sono partiti in diversi da tutta Europa per concentrarsi alla partenza di Barcellona, e tra gli interlocutori del tuo lavoro ci sono personaggi come Saramago, che sarebbe poi morto di lì a poco, sì, e Dario Fo. Sì, esatto, infatti, diciamo che questo piccolo nucleo, no, che era nato a Barcellona, no, da questi italiani, poi però si ingrandisce a macchia d'olio, proprio, diciamo che attraverso la rete diventa un'emozione grandissima che si moltiplica e si coinvolgono appunto oltre che le persone comuni, ma molti personaggi, come dicevi tu, Saramago, Dario Fo, Don Gallo, molti artisti, intellettuali, politici, eccetera, e che tutti in qualche modo contribuiscono, no, attraverso la rete ad appoggiare questa impresa. Infatti per Saramago è l'ultima intervista che si è potuta avere, e infatti io l'ho inserito nel film ed è una grande suggestione la sua voce. Sì. Oh, tra l'altro questa nave sbarcava a Genova ed erano i 10 anni dal G8 del 2001. Volevo sapere da te, Adonella, se poi questa esperienza ha avuto un seguito o si è modificata nel tempo in altro. Ecco, cioè, siccome spesso capita, no, in alcuni movimenti che nascono, no, su un impulso, no, su un'esperienza, qui c'era gli amici dello sbarco, no, gli amici della nave dei diritti. A Genova si erano create le 5 piazze di accoglienza sui vari diritti, no? Poi si è visto che in effetti le stesse persone che stavano organizzando a Genova l'accoglienza alla nave dei diritti erano poi quelle che stavano poi organizzando il decennale, no, del Genova, dei fatti di Genova, e quindi c'è stato un travaso in qualche modo, no? Sì. Ancora adesso ci si scrive tutti come amici della nave dei diritti, però che nel frattempo sono attenti a tutta una serie di altre cose, no? Che quindi comunque sempre legati ai diritti. Sì, sì. Allora, tu domani immagino che sarai presente alla proiezione al Cinema America Occupato qui, certo, a Roma. Sì, ci sarò io e ci sarà il protagonista del film, che arriva apposta da Barcellona domani. ed è una persona travolgente. E sì. Proprio a proposito invece del tuo lavoro precedente, Adonella, volevo chiederti, visto che comunque sei anche una frequentatrice della Valle, se hai in preparazione qualche altro nuovo progetto in proposito. Ecco, rispetto alla Valle adesso diciamo che continua la mia, non so se dire la militanza, comunque io li seguo in Valle e continuo ad andare, continuo ad aiutare, no, il lavoro in Valle. Ci sono anche altri autori che stanno lavorando finalmente, no, sulla Val di Susa, tanto che ci saranno alcune giornate anche di tavole rotonde, di incontri tra autori come, non so, Gaglianone per esempio, che stanno appunto, che adesso stanno anche lavorando sulla Val di Susa, quindi mettono insomma la loro capacità artistica, la loro espressione artistica a disposizione. No? Ecco. Sì, io per adesso sì, può darsi che faccia un nuovo lavoro con gli abitanti sul Notav, però più legato a una riflessione sul rapporto con la natura e con questa natura che viene in qualche modo violentata, sì, no? Sì, ecco. Sì, sì. Così. Bene. Per ora, sì. Adonella, ci lasci qualche riferimento internet per il tuo lavoro Lo Sbarco, ma non solo, anche per magari la tua attività? Sì, beh, allora adesso ho detto sui due piedi c'è Cinema Italiano Info, dove ci sono, no, le mie attività. Io pur non sono ancora su Facebook e penso che insomma dovrò farlo, ma adesso faccio un po' la selvatica e quindi ancora no. Va bene. Così. Allora, per chi volesse, comunque domani c'è questa opportunità per parlarne direttamente proprio, sì, con te e vedere il tuo lavoro. Sì, sì, mi farebbe molto piacere, perché è stato un lavoro, diciamo, faticoso decisamente, sì, no? Sì, però collettivo, bello, con delle persone veramente in gamba che hanno così, hanno dato una grande, e poi ecco, questo lavoro non l'ho fatto da sola, l'ho fatto insieme a un altro giovane regista che frequenta la scuola di cinema di Barcellona, Dario Ferraro, ed è stata un'esperienza anche molto interessante fra di noi, di confronto, certo, anche faticoso, certo, però interessante. Bene. Sì. Adonella, io ti abbraccio e spero di risentirti molto presto. Sì, grazie, io vi ringrazio moltissimo e spero di vedere molte persone. Ciao, a presto. Ciao. Adonella Marena, regista del documentario Lo Sbarco, domani al Cinema America Occupato. È con noi Claudio Storani della Rete degli Spettatori, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie di avermi invitato. Grazie. Allora, c'è stata poco tempo fa la presentazione della selezione 2013 e poi la presentazione della Carta dei diritti dello spettatore. Ma intanto partiamo dalla Rete degli Spettatori. Cos'è questa rete? La Rete degli Spettatori è un'iniziativa, diciamo, che cerca di promuovere al meglio il cinema italiano di qualità e di sostenere le sale dei piccoli e medi centri che sono in difficoltà con il passaggio al digitale e non hanno la possibilità di presentare, diciamo, un'offerta piuttosto ricca. E noi con la nostra attività in un anno li abbiamo avvicinati e sosteniamo questi tipi di uscita, insomma troviamo con loro una collaborazione e cerchiamo di dargli una continuità valorizzando il lavoro sul territorio, aiutandoli, diciamo, a riportare gli spettatori in sala, offrendo un sito di visibilità nazionale, quindi diciamo una cassa di risonanza importante per far capire qual è la loro attività quotidiana. Quindi su questi elementi stiamo cercando di costruire il tessuto collettivo di un paese, insomma, ecco, il tessuto culturale soprattutto di un paese come quello italiano. Sì, Claudio, volevo sapere, la rete quante sale ha raggiunto al momento? Allora, noi lavoriamo sia sulle sale che sulle scuole. Sale, adesso siamo arrivati a 50 sale e molte altre si stanno aggregando, anche perché, diciamo, la nostra idea è un po' questa, è non fare l'evento spot, diciamo, quindi uno soltanto una proiezione, ma il tentativo è quello di fidelizzare gli esercenti che collaborano con noi, insomma. Quindi sta diventando, diciamo, stanno crescendo velocemente. Anche per le scuole è un po' la stessa cosa. Noi non facciamo le mattinee, diciamo, come comunemente intese, cerchiamo invece di riportare i ragazzi in sala e quindi di creare una feconda collaborazione tra l'esercente e gli studenti. Allora, come avevo anticipato, due punti. Sì. La presentazione della selezione 2013, in cosa consiste? Allora, ogni anno la rete degli spettatori, in collaborazione con i 100 autori, nomina una giuria di prestigiosi critici che selezionano tra più di 200 titoli, tra lungometraggi e di finzione e documentari, selezionano 20 titoli che hanno avuto un andamento, diciamo, che sono stati presentati in festival importanti, alcuni sono usciti in sala ma non hanno avuto, diciamo, un passaggio adeguato alla loro diciamo, potenzialità artistica. Quindi vengono selezionati questi titoli e per quest'anno la giuria ha selezionato dei titoli molto interessanti che vanno da Bellocchio e Bertolucci, padri fondatori, insomma, del nuovo cinema italiano, i Fratelli Taviani, a realtà molto più recenti come ad esempio Suré di Giovanni Columbu, come Alì agli occhi azzurri, splendido film di Claudio Giovannesi che ha vinto il Festival di Roma, e come Noi non siamo come James Bond per quanto riguarda i documentari di Mario Balsamo che ha vinto l'ex equo a Torino. Quindi c'è un panorama piuttosto articolato che va dai grandi autori fino agli esordienti di qualità sia nel documentario che per i lungometraggi. Claudio, la carta dei diritti dello spettatore? La carta dei diritti dello spettatore è un'iniziativa nuova, del tutto nuova, della rete degli spettatori, perché la rete degli spettatori ha questo, diciamo, questo obiettivo, cioè di promuovere il cinema ma anche da un punto di vista culturale. Allora, l'idea della carta dei diritti dello spettatore è mettere insieme spettatori, noi diciamo anche giuristi, urbanisti, studiosi e anche uomini del cinema alla fine, per definire insieme un documento programmatico basato su alcuni punti che possa essere in futuro anche vincolante rispetto alla qualità del servizio che viene offerto allo spettatore. Quindi ad esempio ci sarà dentro il diritto alla trasparenza, il diritto alla libertà di scelta, il diritto all'informazione, il diritto alla formazione, quindi l'alfabetizzazione al linguaggio cinematografico, all'informazione. Escono alcuni film di cui non si trova traccia, cioè ad esempio finanziati da importanti produzioni che però non vengono promossi in nessun modo. Allora, attraverso questa carta dei diritti dello spettatore, che verrà scritta in più città e in più cinema, e noi vorremmo, insomma, arrivare ad un documento programmatico che possa essere, come posso dire, di aiutare la consapevolezza dello spettatore. Claudio, un prossimo appuntamento da lanciare? Allora, il primissimo, noi partiamo adesso, prossima settimana, da Poggi Bonzi con Alì, e Alì agli occhi azzurri, e al Cinema Garibaldi di Poggi Bonzi con lo sceneggiatore Filippo Gravino, e ce ne abbiamo tanti. Ecco, in marzo sarà raggiungerà il clou, perché saremo contemporaneamente appunto Poggi Bonzi, quindi Toscana, poi saremo a Genova, saremo a Benevento, saremo a Pesaro e saremo a Milano. Bene. E a Roma alla fine di marzo. Allora, a questo punto diamo come riferimento il sito internet della rete degli spettatori. Sì, esattamente, a www.retedegliespettatori.it, lì troverete anche una cosa molto carina, delle schede di approfondimento su ogni film della nuova e passata selezione. Benissimo, mi sembra che siamo stati esaudienti, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, a presto. Ciao Claudio. Claudio Storani della Rete degli Spettatori per presentare la selezione del 2013 e la Carta dei Diritti dello Spettatore. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più la scaletta la trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. E poi ci potete ascoltare in streaming anche dal sito internet della radio, su Ascolta la Diretta, e poi seguirci su Facebook nella pagina Visionari. Per scriverci l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. proseguiamo. Roberto Andò, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ben trovati. Come va? Bene, molto bene, bene. Bene. Allora, in uscita oggi, Viva la Libertà, per chi ci ascolta, chiaramente diamo alcuni elementi di trama, Roberto. Ma è un film che ho tratto da un mio romanzo, si chiama Il Trono Vuoto, che racconta di un segretario di partito, il maggior segretario, il maggior partito d'opposizione, che in preda a una crisi di consensi scappa, senza lasciare tracce di sé. Il suo scappa in Francia, va a rifugiarsi a casa di un'amica che, con cui ha flirtato a 20 anni, in un'epoca in cui pensava di fare addirittura il regista di cinema. E contemporaneamente a Roma, nel suo partito, il suo factotum, l'uomo diciamo che lo accompagna, la sua eminenza grigia, e incontra il fratello gemello e decide di sostituire il segretario, il fratello gemello, che è un filosofo affetto da una depressione bipolare, e da lì, mentre il vero segretario in Francia si mette a fare l'attrezzista, il finto segretario, questo filosofo, riesce a creare con la sua simpatia e con la sua intelligenza di nuovo consenso intorno al partito e fino a vincere le elezioni. Io partirei, Roberto, dal titolo, perché visto che c'è quella parola libertà di cui uno dei due poli fa uso da tempo, insomma, ha senso molto personale. Ecco, cosa intendevi tu per questo Viva la Libertà? Ma ho cambiato il titolo perché il romanzo Il Trono Vuoto dava più, propendeva più verso il fatto che siamo sospesi in una scena vuota dal punto di vista politico. Invece il film forse c'ha una, come dire, spinta ottimistica che ha fatto sì che poi propendesse per questo Viva la Libertà. Viva la Libertà perché è la libertà di questo signore, questo matto, questo Hernani, questo filosofo, che contagia tutta la storia e contagia anche alla fine questo fratello segretario vero in incognito, ed è quella libertà che la politica dovrebbe ritrovare, non solo attraverso l'immaginazione, ma attraverso anche un linguaggio adeguato alla crisi che stiamo vivendo, e come dire che è anche una crisi della politica, dell'incidenza che la politica ha sulle scelte per migliorare le condizioni sociali, per migliorare la società. Roberto, nel tuo film parli, come dicevi appunto prima, del principale partito d'opposizione che da 20 anni a questa parte sembra aver fatta propria una dinamica portata da chi discese in campo allora, cioè la personalizzazione con simboli che hanno grossi i nomi in rilievo o i faccioni sui manifesti, e il partito gestito in modo aziendale. Sì, c'è questa idea che i partiti si raccolgono intorno a individui la cui notorietà più o meno transitoria può fare da elemento d'attrazione. E molto spesso questa notorietà non coincide con un carisma, è un incidente che avviene per ragioni legate alla funzione che una persona svolge nell'ambito della società. Io ho l'impressione che, e questo diciamo anche viene fuori dal film, che il carisma si misura su altre cose, sull'autorevolezza di un pensiero che restituisce quello slancio morale e culturale che la politica può avere. E in un certo senso questo signore che si trova ad avere questa ribalta così improvvisa, nel momento decisivo, in questo comizio che c'è nel film, citando una poesia di Brecht, restituisce ai cittadini la delega, dice non troverai altra risposta oltre la tua alla crisi, perché in fondo questa delega che i cittadini per molto tempo hanno fatto alle finzioni che i partiti mandano avanti, che tessono continuamente delle finzioni anche attraverso questi personaggi civetta, ecco, questo mi sembra un momento che si è in qualche modo dileguato. Si è fatta una certa chiarezza, anche se in questa stessa campagna elettorale abbiamo visto di nuovo all'opera grandi investimenti di balle, di frottole, di bugie. A me sembra che però è veramente finita quest'epoca. Sì, e sì. Si ricomincia da altre cose, non so che cosa siano perché ancora non abbiamo capito, però sicuramente non sono più quelle finzioni che abbiamo visto finora in azione. Ecco, proprio in base a questo discorso che stavi facendo, Roberto, la popolazione, la cittadinanza vista non più come un semplice corpo elettorale. A me viene per esempio in mente il fatto che soprattutto nel campo, a partire dal campo della cultura, che per un ministro era quella cosa che non dava da mangiare, in tutta Italia da un po' di tempo a questa parte si stiano moltiplicando esperienze di occupazione di cinema e teatri che, per esempio, rispetto all'esperienza dei centri sociali della prima fase, dagli anni 80 e 90, si presentano in modo molto abbastanza diverso, nel senso sono più trasversali, aperti alla cittadinanza e soprattutto, ecco, puntano molto sul discorso culturale, che è un po' quello che una carenza che ha contribuito alla decadenza di questo paese. Eh sì, non c'è neanche un partito che mette la cultura tra le priorità di questo paese. Invece la cosa impressionante è che questo paese, che ha le risorse che ha, che ha sempre avuto una sua voce nel campo della cultura, che oggi è avvilita. Lo stesso cinema è totalmente marginalizzato, è stato, voglio dire, oggetto di uno sberleffo da parte della politica, che lo ha ridotto ai minimi termini, anche se resiste, anzi bisogna dire che resiste. Questi ragazzi che occupano questi spazi in fondo suppliscono a un vuoto e mangiano un messaggio, ma siamo in un paradosso perché lo Stato ne approfitta quasi, sono quasi contenti gli amministratori locali e quelli dello Stato del fatto che questi teatri vengano occupati, perché così se ne disinteressa. Senti Roberto, in chiusura, io avevo avuto modo di vedere qui a Roma lo spettacolo teatrale che avevi portato in scena sempre con Michela Cescon sulla figura di Nilde Iotti, che al di là, insomma, del ruolo che svolse nel partito e nelle istituzioni, ha imposto il suo essere donna in politica e nella società. Sì, sono rimasto molto sorpreso da questo testo di Sergio Perroni e ho proposto a Michele di fare questo spettacolo insieme, perché è appunto un'occasione di far vibrare un certo tipo di parola a teatro e misurare con altra gente quanto in poco tempo sia stato distrutto quello che questi costituenti avevano, quello di questo prezioso dono che ci avevano offerto, quando ancora la parola politica era, corrispondeva a un mandato, e quindi c'era nella vita di queste persone un segno di responsabilità completamente diverso. Lo spettacolo della Iotti, che però è al Franco Parenti a Milano, è in questo senso una dedica a quel mondo della politica che aveva come centro proprio una matrice culturale profonda, occuparsi delle donne, occuparsi della scuola, e riuscire anche, perché la Iotti ha fatto delle cose molto precise che hanno cambiato l'orientamento anche nel suo partito, a parte che con la sua vita ha offerto un esempio chiaro ed è stata osteggiata anche nel suo partito, perché è stata oggetto di un gossip maligno, stupido, sottoculturale, anche in quel partito, quindi in un certo senso ha fatto avanguardia lì. Ma non solo con la sua vita, come un politico dovrebbe fare, ecco, dovrebbe far corrispondere la propria faccia alle proprie azioni, ma l'ha fatto con azioni concrete, precise. E allora ci si chiede com'è possibile che in poco tempo, sono passati veramente non tanti anni, tutto questo è andato in fumo. Senti, io non so se lo sai, ma insomma il martedì facciamo del radioteatro, facciamo gli spettacoli dal vivo in studio o mandiamo in onda registrazioni, mi piacerebbe ospitare il tuo lavoro, poi se ti va, insomma, sarà un piacere. Roberto, certo. Allora ricordiamo l'uscita in sala del tuo film Viva la Libertà, in uscita oggi, in quante copie tra l'altro? Sono 120. 120. Io spero di risentirti presto, un abbraccio. Anch'io, grazie tanto. Ciao Roberto. Roberto Andò, regista del film Viva la Libertà, in uscita oggi. Ben ritrovata Vilma Labate. Ciao a voi. Come va? Bene, voi state bene? Bene, bene. Di nuovo con te, questa volta per parlare, per riparlare, perché la prima volta ne parlammo con Mario Canale, del film, del documentario La versione di Mario, che sarà proposto tra due giorni al Cineclub de Tour, ovvero sia il 16 febbraio. Vilma, allora, intanto per chi ci ascolta, cos'è La versione di Mario? Ma è il tentativo di cinque persone, diverse per esperienza, per tipo di lavoro, per esperienza di vita e diverse per il rapporto che avevano con Monicelli, è il tentativo di raccontare una parte di questo grande, prolifico autore con un carattere ruvido, e di cercare di capire qualcosa in più di lui, mm-hmm. anche se tutti i suoi film ci hanno dato modo di sapere tante cose di quest'uomo. Tu, come sai, chiaramente Mario era un grande amico della radio, e una delle sue tre figlie, Ottavia, ha fatto qui una trasmissione dedicata alle favole per i bimbi, insomma un rapporto molto stretto. Questo documentario nasce da due progetti sempre su di lui che si sono incrociati. Dunque, no, in realtà nasce da una lunga intervista. Sì. Che ho voluto fortemente fare dopo un'esperienza che avevo avuto con lui molto bella, cioè un viaggio breve ma intenso in Palestina insieme ad altri autori, però Mario e io stavamo sempre insieme e abbiamo scelto gli stessi luoghi, no? Eravamo in 11, allora molti si sono mossi per i territori. Mario e io siamo andati a Ramallah e lì abbiamo lavorato ognuno per conto proprio, ma stabilito un rapporto di grande confidenza e di grande amicizia, cosa di cui io naturalmente ero molto fiera e molto orgogliosa. E quindi dopo un anno ho fortemente voluto passare una giornata con lui, una giornata intera in cui gli abbiamo chiesto di tutto, nel senso che abbiamo fatto una passeggiata, un pranzo, una discussione di politica, una discussione sul cinema, una discussione sul personale. E quindi avevamo questo grosso materiale, questo ricco materiale, eravamo in tre, abbiamo fatto in tre questa lunga, chiamiamola intervista, Felice, Farina, Mario Gianni e io, e poi ci siamo messi insieme a Mario Canale, ad Anna Rosa Mori, che lavorano da sempre con questo tipo di film, ne hanno fatti tantissimi sul cinema, che hanno un ricchissimo archivio, e quindi in cinque abbiamo deciso di raccontare una parte di Mario. Sì. In cinque abbiamo capitoli. Abbiamo molto litigato, abbiamo molto discusso, però poi il film è venuto fuori. Sì, sì, sì. Oh Vilma, una cosa che volevo chiedere anche a te, era uscito fuori il discorso anche durante la scorsa conversazione con Mario Canale, qual è a tuo avviso il lascito in più importante di Mario? No, uno non si può dire, nel senso che ha lasciato un'eredità ricchissima, a parte che uno che lascia un'eredità di 63 film rispetto a gli autori anche prolifici, cioè una cosa spaventosa il numero sì. di opere che ha fatto Mario, no? La cosa molto bella che abbiamo scoperto lavorando insieme, ma soprattutto così proprio scandagliando e andando a capire e a vedere anche delle cose più personali, più intime, che è sempre stato considerato un burbero e cinico, e che in realtà forse non era né così burbero, ma aveva delle tracce di tenerezza infinita, e tantomeno così cinico. Mario aveva una forte umanità, mm-hmm, e aveva un rapporto, per questo forse è stato come considerato un cinico e un burbero, un rapporto molto schietto, sì, molto, sì, diretto, sì, sì, quindi sì, sì, ruvido sicuramente, ma non cinico. Mm-hmm. Certo, dire la verità non è sempre così semplice, quindi probabilmente anche rispetto a questo si è guadagnato questa fama di cinico. Mm-hmm. Mario ha lasciato un'immensa eredità, è impossibile dirlo in due parole, oltretutto appunto un'esperienza umana e di cineasta enorme, un bagaglio spaventoso, per cui non avrebbe senso che io rispondessi in due minuti a questa domanda, non saprei come rispondere, ecco. Eh beh, certo. Senti Vilma, al di là della proiezione al Cineclub de Tour, è prevista un qualche tipo di uscita o in home video o in sala addirittura? Il DVD è uscito. Abbiamo fatto una serie di proiezioni, credo che andrà in onda sulla terza rete. Mentre invece... No, non lo so. Sì, andrà in onda sulla terza. Sulla terza rete. Al Cineclub de Tour ci sarete voi autori? Sì, credo proprio di sì. Bene, quindi ci sarà modo anche di una conversazione o prima o dopo la proiezione della versione di Mario. Beh, penso proprio di sì. Bene. Allora Vilma, l'appuntamento lo abbiamo ricordato, spero di risentirti presto. Grazie a te. Un abbraccio. Ciao, un abbraccio. Ciao Vilma. Vilma Labate, co-regista del documentario La versione di Mario al Cineclub de Tour sabato 16 febbraio. Maurizio Di Rienzo, ben ritrovato a Visionari. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Sei alla Casa del Cinema, penso al dopo documentario, c'è stato The Summit, se non sbaglio. Esatto, sono ancora qui a fare delle interviste ai registi, una chiacchierata, conferenza stampa, dibattito, c'era anche il papà di Carlo Giuliani, c'era una persona responsabile della regia, varie persone hanno parlato sia di fatti, circostanze, i registi, tra Cassi e Lauria di questo film presentato l'anno scorso al forum della Berlinale, Stasia di Berlino, insomma, uscirà in circuito ufficiale, sotterraneo, cineclub, ambiti diversi, e finalmente esce dopo premi e distribuzioni in varie situazioni mondiali, sì, europee, sì. Finalmente esce in Italia in un momento, sì, topico. Sì, sì. Quindi, tra l'altro avremo modo di parlarne proprio con, esatto, gli autori, no, giovedì prossimo. Magnifico, magnifico. Mi collego al discorso del documentario perché tu stai per chiedermi qualcosa, giusto? Ti sto per... No, intanto per dare una notizia, nel senso che abbiamo avuto modo di ascoltare ad inizio trasmissione Stefano Grossi, che aprirà la tua rassegna, la nona rassegna, sì, Italia Doc alla Casa del Cinema dal 20, sì, febbraio al 14 maggio, un documentario su Calciopoli. Come mai, mm-hmm, hai deciso di aprire così? Vabbè, non è solo al singolare, qui è tutto un gruppo che lavora, io, certo, sì, conduco gli incontri, seleziono, e perché di documentario mi occupo anche per altre cose, l'ho fatto perché rispetto ad altri documentari che a Roma magari sono stati più visti, e in un momento appunto in cui si parla tanto di impegno, ci sono varie coincidenze, un mese fa ho pensato di inaugurare con un documentario che tocca un altro dei temi nevralgici in questo momento, la politica, il Vaticano, e cos'altro c'è rimasto? Il calcio, no? No, nel senso che al di là dello scherzo, che tale non è, perché si occupa di parte da lontano, non c'è solo lo scandalo scommesse o non scommesse, è proprio evidentemente un occhio retroattivo a tutto quello che è successo nel mondo del calcio italiano, e non solo italiano, il paese gira la ruota, è un paese italiano evidentemente, girato da uno juventino, non so se si è dichiarato juventino Stefano Grossi, e quindi con materiale d'archivio, con no, ma un cose, po' si era capito, no, ma peraltro lo fa in, insomma, buttando la cosa addosso alla sua parte, se parte ma non fazione. E quindi è interessante cercare di capire quello che è un primo capitolo di una storia che proseguirà forse questa storia dopo il campionato, perché altri filoni di inchieste, qui abbiamo visto che anche in altri paesi, tutto quello che sta succedendo, non solo a livello di calcio scommesse, non solo a livello di arbitri, insomma è qualcosa di attuale che c'entra con il sociale, con l'economia, che c'entra con la politica, e quindi mi sembrava interessante. Ne verrà fuori una bella chiacchierata. È stato visto annuare in festa di Courmayeur, dove l'avevamo selezionato, un grande annuare di Giorgio Cosetti, e mi sembra una bella prima romana. Maurizio, se non sbaglio, hai messo su una sorta di squadra, perché sono 11, se non sbaglio, i titoli che presenterai. Sì, sì, sono 11 più un breve cortometraggio documentario legato a una sorta di sopravvissuto all'olocausto di Sergio Basso, che spero di avere in tempo. Quindi sono 11. Sì, mercoledì 27 c'è un omaggio a un uomo che ha attraversato il Novecento, soprattutto la sua seconda parte, e non che Ingrao, l'onorevole Ingrao, Filippo Vendemmiati lo ha filmato, lo ha seguito, lo ha ascoltato in Non mi avete convinto, che è la storia di un ribelle ortodosso, o ortodosso ribelle che dir si voglia, ed è un film in cui sono coinvolti anche i Tête de Bois, che saranno poi alla prima a fare una performance, perché le musiche che accompagnano il film sono loro. Il film è stato presentato alla giornata degli autori al Festival di Venezia, ed è quindi un excursus interessante quello che è stata la seconda parte del Novecento italiano, non solo politico. Ingrao peraltro è un gran cinefilo, come lo era Napolitano, come lo è stato Napolitano, quindi fa parte di quel PC di un certo tipo. Ingrao è iscritto al Centro Sperimentale, e poi insomma è un film particolare. Vendemmiati è quello che aveva realizzato il film trapremiato con Davide Donatello e con altri premi 2 anni fa. È stato morto un ragazzo, quello su quel Filippo Aldrovandi, mi pare. Federico Aldrovandi, sì. Sì. Senti Maurizio, allora piuttosto che anticipare i titoli dei lavori della rassegna, qual è il tratto di unione che mette insieme questi 11 titoli scelti, visto che poi insomma il programma sarà disponibile online? Sì, la verità è che sono fondamentalmente, ancora una volta, non per fare il provinciale, ma anzi per guardare proprio a questa nostra Italia, tranne una eccezione, un'eccezione e mezzo, dei meritevoli Michele Mellari e Alessandro Rossi bolognesi, che ci toccano con God Save the Green, che c'entra con appunto con l'ecologia, con la politica ecologica italiana e mondiale. Sono tutto uno sguardo sull'Italia, c'è molto sud, storia e personaggi e persone. E quindi è un filo conduttore che passa anche attraverso l'intimo, di un film come quello di Mario Basso, Noi non siamo come James Bond, a tante altre cose che invece riguardano la vita, ma più che l'immaginazione, evidentemente la particolarità della vita e dei giovani, anche delle giovani generazioni, e di certe difficoltà in alcune città del sud, c'è Campania, c'è Sicilia, c'è Puglia. E sono comunque anche film di autori che hanno già fatto cinema, se cinema e col documentario hanno una loro distinzione, come Quatrin, Mezzatesa, Marra, Ferrente e Piperno, insomma ci sono firme anche importanti, ma che però riescono ancora con grande passione a raccontare delle storie che hanno anche dei risvolti legati al passato, con film anche di montaggio, di testimonianza, e anche con dei quadri tragicomici in alcuni casi che toccano. Quindi non, insomma, c'è un programma di grande attualità con cose prodotte negli ultimi 7-8 mesi soprattutto, quindi molto, tra l'altro, molto recente. Tra l'altro Maurizio, lì avremo modo di sentirli di settimana in settimana, e quindi di parlare direttamente con loro. In chiusura, brevemente, ti chiedo, grazie a voi, ne abbiamo già parlato, Maurizio? E eccomi, dimmi tutto. Ne avevamo già parlato alla fine dell'anno scorso, visto che noi ci occupiamo in particolare di documentari e tu fai altrettanto, lo stato dell'arte. Io ho l'impressione che siano lavori sempre di più alto livello artistico, commissionati spesso anche alla finzione, di respiro sempre più internazionale, sia per produzioni che per argomenti. E tu cosa ne pensi in proposito? Ma sì, perché oltretutto, per esempio, ieri c'è stata qui una conferenza stampa alla Casa del Cinema, alla Rete degli Spettatori, che ha messo in luce per il secondo anno alcuni film poco visti, 16 dell'annata, novembre 2011, novembre 2012, e 5 documentari, sono della giuria che cambia ogni anno a fare il setaccio, e quindi su tanti documentari segnalarne 5, mi rendo conto, ci rendiamo conto un po' tutti che c'è uno sforzo che andrebbe premiato di più, perché non si può sempre pescare nell'inventiva, nel circuito alternativo, nella distribuzione raffazzonata e volontaristica e nel silenzio, cosiddetto silenzio dei network, di chi acquista poi questi film e di una circuitazione un po' più adeguata. Però è altrettanto vero che il documentario italiano riesce a colmare delle lacune narrative da parte del cinema e da parte anche dei media, e sicuramente siamo più presenti nei festival, c'è più attenzione nei nostri confronti, non ci si occupa solo dei documentari su Berlusconi e dintorni da parte degli stranieri, e il livello tecnico, narrativo è sicuramente più importante oggi, è più cresciuto, e c'è una generazione di documentaristi 30-50 anni molto più importante che 10-15 anni fa, però questo deve arrivare a un punto di svolta positivo e non potrà continuare per sempre un'inerzia che ha bisogno di più strutture, certo. Rimanendo indipendente, rimanendo eterogenea, rimanendo volontaristica nel senso migliore del termine, ma non improvvisata e non a sbocchi distributivi di circolazione. I cineclub, le iniziative, le rassegne, le adunate, i famosi dibattiti non possono sopperire a un mini sistema. Bene, allora Maurizio, io ti ringrazio, ricordiamolo, nona rassegna Italia Doc, la Casa del Cinema qui a Roma dal 20 febbraio, mercoledì prossimo, fino al 14 maggio, ne parleremo di settimana in settimana. Grazie. Con un collegamento con gli autori, un abbraccio e a risentirci. Ti ribadisco, scusami, le repliche il giovedì pomeriggio, il mercoledì 19.30, il giovedì e il sabato alle 18 e la domenica alle 16.30, sempre alla Casa del Cinema, largo Marcello Mastroianni, in Villa Borghese a Roma. Grazie. Un abbraccio, ciao Maurizio. Ciao, grazie, ciao. Bene, siamo in chiusura per quanto riguarda Visionari. Tutte le informazioni riguardo alla scaletta le trovate sul sito internet della radio, www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Per contattarci l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete seguirci anche in streaming, sempre dal sito internet della radio. Sulla home page c'è l'opzione ascolta la diretta e c'è anche la pagina Facebook per quanto riguarda Visionari.